Un ambito in continuo cambiamento, anche per voi credo che sia un po' difficile stare dietro a tutta la normativa che cambia continuamente. Assolutamente, ma il settore informatico, sappiamo che l'informatica ha avuto una grossissima evoluzione negli ultimi anni e anche l'ambito notarile ha risentito di tutto questo. Considerate che le modifiche, adesso, ormai da circa 10 anni il lavoro notarile è completamente rivoluzionato. Cominciamo a parlare delle visure, dei controlli che facciamo normalmente sugli immobili prima di arrivare alla stipula, che adesso si fanno online, mentre prima mandavamo gli impiegati presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari a fare tutti i controlli. Da quello siamo passati, quindi solo in fase di ricezione dei dati, da quello siamo passati alla fase in cui abbiamo cominciato a mandare i dati alla pubblica amministrazione, il registro immobiliare, il registro delle imprese in forma elettronica, e adesso stiamo arrivando all'originale, cioè all'atto totalmente elettronico. Tra l'altro vorrei anche precisare un'altra cosa, perché mi pare di capire, questo mi pare che sia anche un aspetto abbastanza chiaro della nuova normativa, diciamo che non sarà questo provvedimento un provvedimento che avrà un carattere obbligatorio, forse ci si arriverà col tempo, notaio Chibaro, magari proprio per continuare sulla strada del risparmio della carta oltre che del tempo, però al momento rimane una facoltà per tutti i soggetti che scendono in campo nell'ambito della stipula di un atto di compravendita, per esempio. Poi parleremo magari anche degli altri atti che è possibile stipulare attraverso la modalità online. Assolutamente sì, sarà una facoltà in primo luogo perché noi abbiamo a che fare con le persone e chiaramente l'idea di passare a dei rogiti digitali è un fatto non solo giuridico ma soprattutto culturale. Non è detto che a tutti piaccia l'idea di non avere il titolo cartaceo del proprio acquisto.